Ciao a tutti, sono Angela e insegno matematica e scienze in una scuola primaria di Roma. Ho scelto un racconto di Kipling, Ricchi Ticchi Tavi, perché è uno dei miei racconti preferiti. Infatti il mio papà me lo leggeva sempre quando mi capitava di ammalarmi e quindi passavo lunghe ore a letto. Vorrei quindi dedicarlo ai papà, ai nonni e a tutti i bambini, sia grandi che piccoli. Ricchi Ticchi Tavi di Rudyard Kipling. Questa è la storia della grande guerra che Ricchi Ticchi Tavi combatté da solo nelle stanze da bagno del grande bungalow, nell'accantonamento di Siguli. Darzi, l'uccello sarto, lo aiutò e Ciucciundra, il sorcio muschiato, lo consigliava, ma il vero combattimento lo fece Ricchi Ticchi Tavi. Era una mangusta che aveva del gattino nel pelo e nella coda e della faina nella testa e nelle abitudini. Gli occhi e la punta del suo naso erano color di rosa. Poteva grattarsi dove le piacesse, davanti o di dietro, con qualunque zampa scelta. Poteva arruffare la coda come una spazzola da bottiglia e il suo grido di guerra, mentre sgattaiolava attraverso l'erba, era «Ricchi ticchi ticchi ticchi!». Un giorno, un acquazzone d'estate, la trascinò fuori della tana dove viveva con i suoi genitori e la trasportò, che si dibatteva e guaiva lungo un fosso della strada. Trovò un ciuffo d'erba galleggiante e vi si aggrappò finché perdette i sensi. Quando rinvenne, si trovò tutta inzuppata e distesa in mezzo al viale di un giardino, al sole caldo, e un ragazzetto che stava dicendo «Ecco una mangusta morta, facciamole un funerale!» «No», disse sua madre, «portiamola in casa e asciughiamola, forse non è proprio morta». La portarono in casa e un uomo grande la prese fra l'indice del pollice e disse che non era morta, ma mezza affogata. La avvoltolarono nella bambagia, la scaldarono al fuoco e Ricchi Ticchi aprì gli occhi e starnutì. «Adesso», disse l'uomo grande, era un inglese ed era arrivato allora nel bungalow, «non la spaventate e vedremo che cosa farà». Spaventare una mangusta è la cosa più difficile di questo mondo, perché dal naso alla coda è divorata dalla curiosità. Infatti il motto delle famiglie delle manguste è «corri e vedi». E Ricchi Ticchi era una vera mangusta. Esaminò la bambagia, decise che non era buona da mangiare, corse intorno alla tavola, si sedé, si lisciò il pelo, si grattò e infine saltò sulla spalla del ragazzino. «Non aver paura, Teddy», disse suo padre. «Questo è il suo modo di fare amicizia». «Oh, mi fa il solletico sotto al mento!» disse Teddy. Ricchi Ticchi guardò giù fra il solino e il collo del ragazzo, ne fiutò l'orecchio e corse giù sul pavimento dove sedette, fregandosi il naso. «Buon Dio!» disse la madre di Teddy. «E quella sarebbe una bestia selvatica? Suppongo sia così domestica perché l'abbiamo trattata bene». «Tutte le manguste sono così», disse suo marito. «Se Teddy non la prende per la coda e non cerca di metterla in gabbia, correrà tutto il giorno dentro e fuori della casa. Diamole qualcosa da mangiare». Le diedero un pezzettino di carne cruda. A Ricchi Ticchi piacque immensamente e quando l'ebbe finita andò fuori sulla veranda e sedé al sole e arruffò il pelo per asciugarlo fino alla pelle. E allora si sentì meglio. «Ci sono più cose da scoprire in questa casa», disse fra sé e sé, «di quanto la mia famiglia ne potrebbe scoprire in tutta la vita. Certo, rimarrò e lo scoprirò». Impiegò tutto il giorno a girellare per la casa. Poco mancò non s'annegasse nelle bagnarole, ficcò il naso nell'inchiostro sulla scrivania e se lo bruciò al sigaro dell'uomo grande, perché gli s'era arrampicata in grembo per vedere come si faceva a scrivere. All'imbrunire, corse nella stanza di Teddy per vedere come si accendevano i lumi a petrolio e quando Teddy andò a letto, Ricchi Ticchi salì su anche lui. Ma era un compagno irrequieto, perché doveva alzarsi e andare a badare a ogni rumore tutta la notte e scoprire da che cosa era prodotto. Il padre e la madre di Teddy vennero, per ultima cosa, a guardare il loro ragazzo e Ricchi Ticchi era sveglio sul guanciale. «Questo non mi piace», disse la madre di Teddy. «Potrebbe mordere il bambino». «Mai più», disse il padre. Teddy è più sicuro con questa bestiola che se avesse un mastino per guardia. Se, per esempio, venisse un serpente nella camera... Ma la madre di Teddy non volle neppur sentir parlare di un simile orrore. La mattina dopo, di buon'ora, Ricchiticchi venne alla prima colazione sulla veranda in spalla a Teddy. Gli diedero della banana e dell'uovo sodo e si sedette sulle ginocchia di ognuno di loro, perché ogni mangusta per bene spera sempre di diventare, un giorno o l'altro, una mangusta domestica e di avere delle stanze a sua disposizione per divertirsi. E la madre di Ricchiticchi aveva insegnato a Ricchi cosa doveva fare se si trovava con uomini bianchi. Poi Ricchiticchi andò in giardino per vedere cosa c'era. Era un giardino grande, semi-incolto, con cespugli grandi come pergolati di rose e maresciallo Nil, tigli e aranci e ciuffi di bambù e macchie di alte erbe. Ricchi si leccò le labbra. «Ma questo è un magnifico terreno da caccia», disse, e arruffò la coda soltanto a pensarci. Sgattaiolò su e giù per giardino, annusando quella finché udì delle voci lamentevoli uscire da un roveto. Era Darzì, l'uccello sarto, e sua moglie. Avevano fatto un bellissimo nido, riunendo due larghe foglie e ricucendone i lembi con fibre. Avevano riempito il cavo con bambagia e peluria morbida. Il nido oscillava avanti e indietro, mentre essi, appollaiati sull'orlo, piangevano. «Che cosa avete?» domandò Ricchiticchi. «Siamo molto infelici», disse Darzì. «Uno dei nostri piccini è caduto fuori dal nido ieri e Nag lo ha mangiato». Disse Ricchi. «È una triste cosa, ma io sono forestiero qui. Chi è Nag?» Darzì e sua moglie si rannicchiarono nel nido senza rispondere, perché dall'erba folta che cresceva ai piedi del rovo venne un sibilo leggero, un orribile suono freddo che fece balzare indietro Ricchi di due piedi. A poco, fuori dall'erba, sorse la testa e il cappuccio aperto di Nag, il gran cobra nero, ed era lungo cinque piedi, dalla lingua alla coda. Quando si fu alzato per un terzo da terra, rimase oscillando avanti e indietro, precisamente come uno stelo di cicerbita oscilla al vento, e guardava Ricchiticchi con quei cattivi occhi di serpe che non mutano mai espressione, qualunque cosa stia pensando il serpente. «Chi è Nag?» disse egli. «Sono io, Nag. Il grande dio Brahma mise la sua impronta su tutto il nostro popolo, quando il primo cobra distese il suo cappuccio per riparare dal sole Brahma che dormiva. Guarda e trema!» Distese il cappuccio più che mai. E Ricchiticchi vide sul dorso l'impronta degli occhiali, che pare piuttosto il gancio di un fermaglio. Sul momento ebbe paura, ma è impossibile a una mangusta avere paura per molto tempo. E sebbene Ricchiticchi non si fosse mai trovato prima con un cobra vivo, sua madre gliene aveva fatti mangiare dei morti e sapeva che il compito di una mangusta adulta sta nel combattere e mangiare serpenti. Nag lo sapeva anche lui e nel fondo del suo freddo cuore aveva paura. «Bene», disse Ricchiticchi, e la sua coda cominciò ad arruffarsi nuovamente. «Impronta o non impronta? Ti pare giusto di prendere uccellini da un nido e mangiarli?» Nag pensava dentro di sé e osservava ogni minimo movimento nell'erba dietro a Ricchiticchi. Sapeva che prima o poi delle manguste in un giardino volevano dire morte a lui e alla sua famiglia, ma voleva distogliere l'attenzione di Ricchiticchi. Per questo abbassò un poco la testa piegandola da un lato. «Discorriamo un poco», disse. «Voi mangiate delle uova, perché io non debbo mangiare gli uccelli?» «Dietro a te, guardati dietro!» cantò Darzì. Ricchiticchi sapeva d'aver altro da fare che guardare. Saltò su per aria quanto poté. Proprio sotto di lui guizzò la testa di Nagaina, la perfida moglie di Nag. Era strisciata dietro a Ricchiticchi mentre parlava per finirlo. Ed egli sentì il suo sibilo feroce quando il colpo fallì.